Quella zetta. E beh, oggi non si canta a messa? Vediamo un po'. Ascolto in cuffia come sto uscendo. Bene, già mi piace, così mi piace. Aiuto, ma nessuno oggi? Nudda, nudda, tutti sepolti. Ah, io se lo faccio la discoteca, mi dovevo guasare, mi non cambio idea, faccio la discoteca subito. Vogliamo sentire Sassari in Cacciolina? No, in Cacciolina non villaggio, cioè ce l'ho, ma dovrei cercarla, non so dov'è, ma te ne posso far sentire altri. Quante ne vuoi, dimmi tutto quello che vuoi e qui arrivano. Dovrebbero farlo stereo il baracchino, stereo, sì. Ma lo sai che adesso fanno baracchini con la presa USB e per caricarti il cellulare, tutte le abiture, stanno mischiando un po' di tutto, mi non sanno più cosa inventarsi. Perché il dio denaro fa fare quello e altro, il problema è quello, sempre sul. Anzi, io mi chiedo, come essendoci poche utenze CB ormai in Italia, in Europa, no? Sono drasticamente diminuite. Come riesca la Midland e tante altre case che commercializzano baracchini a campare? E tu dici, vabbè, ma loro campano anche di altro, hanno telecamere di sorveglianza, hanno droni, hanno un po' tutti i prodotti. Un po' tutti i prodotti di elettronica, capito? No? Cioè non vendono solo baracchini. Però il reparto ancora resiste. La Midland, peccato che non ha fatto più però, sai che cosa? Sì, c'ha baracchinetti tutti più o meno omologati, no? Però apparecchi belli tipo base oppure anche quelli multibanda, MFM, multibanda di canali, anche multimodo, volevo dire, MFMSB, non è più fatto. Si è arenato con quell'Alan, come si chiamava? L'8001 può essere. Poi non so nemmeno se l'abbiano tolto dal catalogo. 8001 sì che esiste, come no, quanto che è anche una bella radiolina l'8001 era. Indubbiamente, solo che era troppo caro, comunque chi l'ha comprato vuol dire che le è piaciuto e se l'ha preso. Andate, adesso ti faccio sentire una canzone. Al telefonino, non so mai cosa vuol dire faccia ridrudda, e poco, ben poco lo mastico il sassarese, troppo poco. Ho sempre privilegiato l'italiano e poco mi sono interessato della lingua locale. Cosa vuol dire trudda? Mestolo. Mesto? Il mestolo, quello che serve per girare la pasta. Ah, il mestolo sarebbe trudda. Ecco, poi cosa vuol dire faccia di mestolo? Era meglio metterci qualche altro termine. Facciamo come i paesi, mi Giulio. Chiamandolo la messa online, no? E gli anziani che non possono andare a messa c'hanno il ricevitorino. Mi pare di ricordare intorno ai 40 MHz, se me ne stavamo parlando l'altro giorno. Capito, la messa in diretta dalla chiesa direttamente alle case dei fedeli. E perché non lo sai che i preti, anche per quello, senti quanti gol oggi c'è una barca di gol che stanno facendo queste squadre che stanno giocando. Vabbè dai, stavo dicendo, stamattina ho letto sul giornale, a Sorso un bambino ha fatto due sannuti e era subito chiamato i genitori a portarselo via. Ha hanno avuto paura gli insegnanti che fosse malato il bambino. Boh, non è possibile. E a me quante volte, che ne so, sai, nel naso, parte degli uomini c'hanno i peli, ogni tanto un po' di moccio secco che ti solletica il naso, e forse per quello saremo sempre col Covid, la vita. E c'è un po' una psicosi adesso, chiamano anche eccesso di prudenza, però, vabbè. E poi, non so se te l'avevo raccontato a te direttamente, che erano arrivati, ve l'avevo segnato sul 23 anche, dovevano arrivare i termopulso, i pulsosimetri, quello che attacchi al dito e ti misura l'ossigenazione del sangue. Beh, io sono andato lunedì a Luna, cioè sono andato tardi, a Luna tutto sbranato, tutto lo scaffale dedicato a questi cosi l'hanno sbranato. Perché? Perché adesso le persone, che l'hanno imparato da internet, ci hanno sta psicosi del Covid e se li sono comprati tutti, tutti, non è rimasto uno, capito? Quindi stanno tutti attaccati a chi su cosa, adesso a vedere se l'ossigenazione scende, perché è un tipico sintomo dell'infezione Covid. Con quello controlli, se vedi che scende troppo l'ossigenazione, vedo che potrebbe avere attaccato i polmoni il virus, capito? Ok. No, l'altra è ancora più bella, Un bambino, signora maestra, devo andare a fare la pipì, vai, e l'ha mandato. Subito a seguire una bambina classinista, signora maestra, anch'io devo fare la pipì. No, tu resisti, tanto siamo per uscire dalla scuola. E tutto questo perché? Perché il bambino la fa in piedi, mentre da bambino si doveva sedere, e dunque per non essere contagiata dal batter o qualcosa del genere, capito? Vabbè, tanto mi, per quanto uno prenda precauzioni, se deve succedere, succede, come tante altre cose. Poi c'è da poco ho visto il video di una rissa in un centro commerciale, credo italiano, anche una guardia giurata nel mezzo c'era, a colpi di spintoni, si sono tirati anche quei cestinetti per la spesa a faccia, c'è proprio rissa la selvaggia. E questo perché? Perché c'era una o più persone che non voleva mettere la mascherina. Sì, perché ci sono gli imbecilli che non sanno le regole, e poi ci sono quelle persone che glielo fanno notare, allora ci offendono e hanno la presunzione anche di aver ragione, ma comunque questi sono deficienti e basta. L'altro, la scuola del Monte Rosello, ascolta quest'altra, e i bambini hanno, devono entrare a scuola seguendo una linea colorata a secondo della classe, eccetera, eccetera, no? A un certo momento c'era questo, suo figlio, signora, deve passare sulla linea arancione, va bene, d'accordo, controllando, ma e dove è la linea arancione? No signora, non c'è ancora, non abbiamo fatto in tempo a metterla, alla scuola era già iniziata. Sì, quella cosa lì, ma vogliono fare anche i bambini automi, i ragazzini automi, seguire anche, che ne so, entri in certi posti e ci sono le linee tratteggiate, in un senso è per chi entra, in un senso è per chi esce, capito? Proprio come scemi, capito? Qui la D'Urso che insegnava come lavarsi le mani, ma vai, ti avrei insegnato un'altra cosa la D'Urso, glielo do io. Si stanno rimbambendo le persone con questa scusa, perché è una scusa. Poi per la mascherina, te l'ho detto, a parte le mascherine chirurgiche servono relativamente, molto molto relativamente, aiuta e non aiuta, quindi io la metto per non prendere la multa, ecco perché la metto. Perché tanto, a meno che non c'hai roba professionale che ti isola proprio il viso o la bocca e il naso, se deve entrare il virus entra e manco te ne accorgi. No, io le regole le seguo perché è giusto che sia così, e io la mascherina la metto innanzitutto per preservarmi io, primo, e secondo per rispetto anche nei confronti delle altre persone, perché è anche una questione di rispetto, perché una persona non lo sa se io sono sano o se sono malato, dunque a quel punto lì non sarebbe giusto che uno circolasse senza la mascherina. E poi non dimentichiamoci, la prevenzione personale è quella che conta. Se poi uno non la vuole usare, è peggio per lui, cosa vuoi che ti dica? Vuol dire quando lo trovano ne faranno la multa a 400 euro. Però lì bisogna andare su mascherine fattore 2, quelle sagomate, quelle che proprio ti isolano, che non hanno spifferi, capito Giulio? Perché anche se uno tossisce, con quelle chirurgiche, gli spifferi ce l'hanno da tutte le parti, ai lati, verso il naso, verso i lati, verso, certe volte anche sotto il mento ha degli spifferi. E quindi, cioè, ma poi si inaffuttini tutti, guarda come sono i bar, guarda come sono i ragazzini, i giovani soprattutto, non ragazzini, anche giovani che la testa per ragionare volendo ce l'hanno, ma non era proprio nulla. Comunque Zaia, che era tanto coso, ha fatto un discorso, De Luca, è presente De Luca, quello, il coso, non mi ricordo la regione, Campania, come si dice, no? Quello che bacchetta molto, ha fatto un discorso su questo scandalo degli extracomunitari, un discorso giustissimo. Beh, la televisione non l'ha mai mandato in onda, mai, perché era un discorso scomodo per il PD. Praticamente ha detto, ma come fanno questi del PD, dice, che lui dovrebbe essere orientato in quella zona lì, a non accorgersi dello scempio che stanno facendo questo incontrollato afflusso di extracomunitari in Italia. Dice, ci sono quartieri in mano alla mafia nigeriana, dice, abbiamo paura per le nostre figlie che quando tornano, se tornano tardi, c'è spaccio, c'è cosa, insomma. Beh, la TV non l'ha mandato, perché era un discorso contro, alla fine, credo il suo stesso partito. Adesso non sono sicuro che se De Luca sia pidino o grillino, ma al governo quelli ci abbiamo. Sì, De Luca è del PD, è contro Salvini, per cui adesso si sta lamentando. Quando invece glielo proponeva, o lo proponeva De Salvini all'Italia il fatto dei extracomunitari, allora non andava bene. Adesso ci sta pensando, perché per il semplice motivo che adesso lì in Campania sono tutti quanti contagiati, una delle regioni più contagiate che c'è in Italia, per cui, ma guarda che quello lì è uno scemo, per conto mio quello lì è uno scemo, intanto è un maleducato, perché nella maniera come ho offeso Salvini l'altra volta, non era da presidente della regione, non è il modo di comportarsi quello lì, è stato un grandissimo maleducato. E non dimentichiamoci che Salvini dice quello che serve alla pancia della gente, quello che vuole sentire la gente, per cui non sarà, diciamo, molto simpatico, non avrà un approccio troppo brillante, però quello che dice Salvini è giusto, guarda, perché non è possibile che tutta l'Africa debba venire qua, viene solo esclusivamente per queste persone che hanno degli interessi, perché sicuramente c'è tanta gente che ci sta guadagnando, ma guadagnando forte però, da questi extracomunitari, da questi morti di fame che vengono da fuori, perché non se ne rimangono nella loro terra, anziché venire qua e cercano di lavorare nella loro terra, invece vengono qua a raccogliere pomodori, a vivere da traccioni, e poi hanno il coraggio anche di lamentarsi, e vogliono assolutamente la cosa, la nazionalità italiana, ma a Tinnanda non Tinnandi. È vero, è vero. E comunque le risorse della Boldrini, vabbè, come diceva lei, cioè questi che vengono, questi in aereo nordafricani, non gli conviene nemmeno andare a raccogliere pomodori, no? Fregando per altri lavori gli italiani che manco ci vanno più a raccogliere i pomodori, diciamolo, se lo dice a un ventenne, a un trentenne, manco ci va più. Quelli, per avere due spiccioli, preferiscono direttamente andare a spacciare, rende molto ma molto ma molto di più, e quindi quello vengono a fare la maggior parte. Poi ci sono anche, ce ne sono alcuni che si salveranno, non di questi nigeriani, non credo che siano tutti cattivi, tutti sulla via dell'illegalità, però la maggior parte lo fa. Che te devo dire? Boh. Comunque un discorso del genere, questo discorso che ha fatto De Luca, se l'avesse fatto Salvini, no? Oggi come oggi, fascista, coso, razzista, un ben di menate, non c'entra il razzismo qua. Vabbè, sono culture diverse poi quelle, capito? Lo sai come trattano le donne anche i nordafricani, no? Che hanno lo stupro facile, capito? Allora, adesso il giorno 5 le fanno il processo a Salvini, ma dimmi tu se si può processare un ministro, dal momento che stava difendendo l'Italia, comprese anche quelli del PD ovviamente, e quelli di 5 Stelle e di qualsiasi altro partito, ma non è possibile, ragazzi. E danno ragione a una persona, quel comandante donna, cos'è, tedesca mi sembra che era quella, o cosa era, che addirittura ha rischiato di ammazzare 5 padri di famiglia a bordo dell'imbarcazione quando ha forzato i limiti. Non è possibile, guarda, non è possibile assolutamente che l'Italia possa essere in queste condizioni, in mano a questa gente che è proprio incapace di amministrare. Per non parlare di quello del presidente dell'INPS, da 60.000 euro l'anno che prendeva, si è aumentato di sua iniziativa a 160.000 euro. Ma ti sembrano cose da fare queste? Io vorrei sapere cosa stanno pensando i partiti, anche il presidente Mattarella, cosa sta pensando a sciogliere le camere, che questi stanno rovinando l'Italia, nello stesso della parola. Sì, poi Mattarella non si pronuncia mai, è sempre buono, bravo, fa i discorsetti ufficiali, mi l'altro giorno era a Sassari, l'avranno tolto dal freezer per fare visita a Sassari, a dire due parole in croce. E allora, è venuto qua per ricordare Cossiga, così dicono, perché non lo poteva ricordare ugualmente a Roma. C'era bisogno di venire qua e creare e recare spese all'Italia, con tanto di aerei, con tanto di uomini, con tanto di preparazione che ci vuole tutte le volte che si muove una di queste persone. Sono milioni e milioni che si spendono per un piccolo spostamento, per una visita magari di un'ora, due ore qua in città. Ma vai, ma quando mai? Ma questi sistemi sono. Ma dimmi tu se questi sono sistemi di mandare avanti una nazione come l'Italia. Purtroppo il mal costume è radicato, molto radicato in Italia, più di altri paesi europei. È proprio un mal costume italiano. Già da secoli, dai, secondo me. È come, non voglio dirlo, ma l'Italia è come una grande Napoli, no? Dove ci sono tutti furbetti che si fanno le leggi a proprio conto, chi si autoaumenta gli stipendi, vitalizi, oi. C'è un conflitto di interesse terrificante lì. Certe cose non dovrebbero, eppure anche la magistratura, ho visto che su tante cose zittisce troppo. Sembra che si sia uniformata al governo, capito? Perché diciamolo, i magistrati come tutti gli uomini non sono super partes, anche loro hanno orientamenti politici. E quindi chiedi un certo orientamento quando c'è il governo, il coso, va tutto bene, oppure certi forse hanno paura di agire, oppure salgono sul carro del vincitore, il termine giusto. Certi sono anche opportunisti, chiunque ci sia al governo, loro sono amici del Conte di turno, del Berlusconi di turno, qualsiasi sia, capito? Quindi fanno quello che vogliono, comandano più loro, grazie a quello che il governo, ma per carità. Ma la vita, le intercettazioni che hanno fatto telefoniche su WhatsApp, eccetera, eccetera, a riguardo di Salvini, quando Salvini era ministro dell'interno che stava amministrando anche lui, no, il fatto dei di extracomunitaria, eccetera, dicevano, dice, Salvini ha ragione, però bisogna bloccarlo. Ma dimmi tu se un magistrato deve parlare in questo modo. E poi questo l'ha confermato anche quel Palamara, che poi è stato eliminato, è stato espulso addirittura dalla magistratura. Quel Palamara e altri magistrati che stavano parlando di questo, già l'hanno pubblicato sul giornale per parecchi giorni, almeno una ventina di giorni, se non anche di più, c'erano tutti questi discorsi che sono stati intercettati di questi magistrati che parlavano fra di loro contro Salvini. Dice Salvini, dice ha ragione di fare così, però bisogna distruggerlo. Ma dimmi tu se uno deve essere sabotato in questa maniera. Ma non è possibile, guarda. Non è assolutamente possibile sentire certe cose da parte dei magistrati, vergognoso . Nel frattempo ho iniziato a mangiare, così me lo tolgo di mezzo. Sì, quello è stato mandato via dal cos'era? Dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, roba del genere, comunque roba grossa. Non ho approfondito. Sì, loro sì, nel sottobosco si fanno tante porcate per conto loro, capito? Favoriscono chi vogliono loro, segano le gambe a chi vogliono loro. E altro che super partes. Il bel paese, mi ha una ragione, chiama il bel paese in senso negativo però, l'Italia no. E allora, che vergogna, grazie, poi non parliamo della scuola, per carità, hanno comprato i monopattini, ne hanno comprato alla gente, l'incentivo hanno dato per comprare i monopattini, e i bambini a scuola non hanno le banche, nemmeno le sedie, che li siedono per terra addirittura. Ma dimmi tu se sono cose accettabili queste. I genitori fanno male, mandare i figli a scuola senza queste strutture che mancano, ma non è possibile. Dimmi tu che fai sedere i bambini per terra, solo perché non ci sono le sedie e i banchi. Incredibile. Per non contare poi di quanti insegnanti mancano, oltretutto, perché anche quelli non ci sono, tanta gente non ci è voluto andare, anche per il fatto del sistema, o sa mai, dice, è pericoloso per il Covid, eccetera. Però da voi che ti dica, siamo in Italia, e boh, c'è da vergognarsi di essere italiani, guarda. Poi questo discorso a parte di questi monopattini elettrici, no, che alle volte sono comodi, no, quindi prima il mercato, cioè, li hanno diffusi, però in certe città stanno facendo tante di quelle limitazioni alla circolazione di questi monopattini, che alla fine, cioè, prima si dice che bisogna limitare il traffico, le macchine, l'inquinamento, eccetera, insomma, allora uno si piglia un monopattino elettrico, poi cominciano, divieto, questo non lo puoi fare, lì non puoi andare, e adesso non ti dico i particolari, mille limitazioni, non so se ti debba mettere pure il casco, io qua non ne vedo casco, a Sassari per esempio. Insomma, alla fine la comodità che avevi, la praticità, te la fanno passare le leggi, in poche parole. Poi è anche vero che ci sono monopattini che trubano quanto moto 125, cioè hanno delle potenze anche che... poi molti li usano dappertutto, su marciapiedi, in mezzo alla gente, in mezzo strada, non seguono i semafori, non seguono... come le bici, d'altronde. Io vedo continuamente bici contromano, bici che quando fa comodo sono ciclisti, quando fa comodo sono pedoni, no? Privi di illuminazione notturna, né luci, né, certi non hanno nemmeno il catarifrangente, cioè non li vedi tu fuori città col buio, rischi di ammazzarne uno. E poi ti danno tanto tutte le colpe, capito? Sì, beh certo, intanto sono successi tanti incidenti con questo fatto del monopattino. Adesso ti mando un filmato proprio a riguardo di un monopattino, di una persona col monopattino, che c'è da ridere, guarda. Aspetta che chiudo, c'è il fischio. Ecco qua. Se no sentivi anche il fischio. Eccolo, aspetta, ti mando subito un filmato, guardalo mio, o Marco. Avanti breve. Ciao Gianni, aspetta un attimino. Ah, Gian Girella, io sto mangiando. Appena finito faccio quelle commissioni là. Bene, ma il filmato dov'è? Al cellulare l'ha mandato, vediamo. Ancora nulla qua. Eccolo. Guardalo. Dimmi Gianni. Adesso dammi un controllo. Vai che guardo, è zona più o meno. Guarda. 9 più 10 sei già. E da te Giulio? 9, modulati 9,5. Vedi che l'antenna nuova va bene. Beh certo, ma è più lunga anche quella. No, è anche 1,1 di stazionare in tutti i canali. È un po' diversa dall'altra che ne dava due. Sì, vabbè, a parte quello. Ma è anche più lunga come antenna. Beh, 2 metri questa qua, non so se mi spiego, 2 metri. Allora, infatti, vedi che l'altra non usciva. Sono balle quelle cose che ho sentito in questi giorni, che usciva bene un antennino basso. Ma non è vero, erano balle. Perché a me non mi arrivava da certi posti. Adesso mi stai arrivando a Santiago Nove. Questa è un'antenna. Giulio, quella che ho però e io ho sentito parecchie volte che è stato detto che l'antenna corta funziona benissimo, ma non hai capito che l'antenna, la frequenza funziona in base alla lunghezza della fisica dell'antenna, se no non va. Sì, adesso va bene. Magari quando devo andare in posti bassi uso quella più piccola e via, dove ci sono alberi eccetera, se no uso questa qua. Questa va più che bene, dai. Beh certo, è così che deve essere. Uno le cose o le fa bene o non le fa niente, perché per farle in maniera scarsa non ne vale la pena, anzi è fastidioso addirittura, perlomeno a me mi darebbe fastidio, guarda, te lo dico sinceramente, io quando sento qualcuno che poi le sento due parole e non sento il resto, allora a me mi dà fastidio. A me piace parlare con tutti, per carità, rispetto tutti, ma se non ti fai sentire mi stai dando fastidio. Non è che ce l'ho con la persona, assolutamente no, questo no, perché no, non sono così scemo. Però mi dà fastidio il fatto di non sentire. È inutile che tu accenni qualche parola e poi sparisci di punto in bianco, boh? Adesso sono all'inizio di via Don Sturzo, come ti arrivo Giulio? Santiago Nove. Qua sei già oltre il 9 più 25, fate il conto. È diverso, cioè, quando l'antenna è grande si rende molto impressionante. È assurdo che uno si metta lì a fare poi tanti discorsi, ho sentito in questi giorni che nemmeno i CB ai primi anni a città, tutto quello che dicevano. Ma cosa può funzionare un'antenna a 60 cm? Che 60 cm è tre ottavi d'onda, cioè un ottavo d'onda è 60 cm. Boh, non lo so io, ma comunque, che dicano quello che vogliono, intanto ormai la frequenza è diventata modesta e non se ne parla più. Ma vabbè Giulio, io ti dico, con una che avevo costruito io, che era 70 cm, da Porto Torres, vabbè, usavo anche il dialetto, con la verità, però mi sentivano bene. Se tu carichi è logico, e lì ha detto che ti dà 80 watt e ti dà quello lì, anche quello ti dicono 100, ma 100 non te ne dà, te ne dà 80, 85, è chiaro, c'è la potenza e va bene. Tu immaginati se lo metti adesso lì ha detto, ma da 9 se ne arrivi stai arrivando, come minimo arrivi 9,10, 9,15 con lì ha detto. Vabbè, quello è d'accordo, ma per dire no, che non raccontiamo cretinate tante volte le sento per carità, è per quello che non siamo uniti in frequenza, uno da una parte, uno dall'altra, proprio per quel motivo lì, perché alle volte si sentono dei discorsi proprio che fanno passare la voglia di avere il baracchino. Vabbè, avanti Marco, scusa il monologo, vai. Comunque Giulio, anche se sono corte, credo che elettricamente sia sempre un quarto d'onda, salvo rari casi. Per esempio quella del Maxcom, credo di poter dire quasi per certo che è un ottavo d'onda. Se sommi quella spirale che c'ha sotto la base magnetica, no, se la misuri e misuri la lunghezza stilo, bene o male arrivi a un ottavo d'onda. Però tutte le altre dovrebbe, e che sono caricate, cioè, facendole un quarto d'onda e comunque super caricate, la resa è poca, capito? Dipende, poi guarda che cambia molto anche da marca a marca. Come si diceva, la PLC Minox era un'antenna piccolina, ma in proporzione ad altre antenne di pari lunghezza rendeva di più, mi pare ricordare. Già, riprendi. Molto performante, ragazzi. Molto bene, ce l'aveva fatto da Brode, ce l'aveva altra gente, le andava bene. Diciamo che lo fa parte del corpo, cambiare molto, mentre invece queste antenne lunghe, anche se in mezzo fa la funzionale. Quello è il fatto della bobina, Marco, non vuol dire niente, perché quello lì, la bobina è sempre la parte passiva dell'antenna, per cui non irradia niente dalla bobina, perché irradia è sempre lo stilo, è quello che conta, perciò la lunghezza dello stilo, più lungo è meglio è, naturalmente sempre in base alla frequenza che deve lavorare, però non è che puoi mettere 20 metri, non per dire, è normale. Ma è quello che conta, ricordati sempre, la bobina è costruita perché deve sempre rientrare nel multiplo della lunghezza d'onda, questo non ci piove, però la bobina è sempre una parte passiva, dunque non irradia niente. Vai Marco sta mangiando. Gianni, riprendi tu. Marco non ha preso mai il tipo di mangiare. Giulio. Sì, sta mangiando, Marco sta mangiando, aveva iniziato poc'anzi, si vede che ha interrotto in questo momento. Marco, hai ripreso? Dai, eccolo, con il cibo in bocca a quest'ora. E così è già, non c'è niente da fare, è inutile andare a dire sì, ma appartiene un piffero, perché la bobina non è la parte passiva dell'antenna, dunque... che non serve a niente, quello che conta è lo stilo. Vai già. Le bobine le usano per recuperare la lunghezza dell'antenna, dai. Le usano per quelle bobine. Beh certo, la lunghezza fisica loro la completano con la bobina, però quando è fatta in bobina così, diventa parte passiva, non serve a niente, quello che irradia è solo lo stilo e basta. La bobina è proprio come se non ci fosse, in poche parole. Serve per il fatto delle stazionali, eccetera, anche per la risonanza, ma è una risonanza passiva assolutamente quella della bobina. Io volevo fare la prova, volevo prendere quella da 1,20 m perché era tra la mini turbo e la turbo 2001. Ce n'era una al centro che era 1,20 m, ho detto vabbè facciamo quella la via di mezzo, invece è un'antenna che non serviva di più la mini turbo di quella. Vabbè, vuol dire che era proprio costruita male, il discorso è anche quello, per cui poi io sono sempre dell'idea, le cose quando si fanno per essere fatte bene, non per farle così a cavolo di cane, assolutamente no. Non va bene, io ho sempre odiato le cose fatte male, guarda, ma in tutte le cose però, in tutte e per tutto, per cui si può immaginare il mio carattere, qual è? Peggio di te, tu sei pignolo, no, io sono peggio di te, Ogia. Purtroppo io le caratteristiche di questa antenna non le avevo guardate, è stato un mio... diciamo un mio sbaglio, un mio errore non guardare le caratteristiche, perché quell'antenna lì aveva forse problemi, anche quella che ho preso io, perché non abbassava di stazionare, non sulla maniera, addirittura ho parlato col tecnico della LEB, quello che costruisce le antenne, e mi ha detto di provare a tagliarla pezzo per pezzo che si abbassavano, se non si abbassavano che me l'avrebbero cambiato. Io ho provato, l'ho tagliato due pezzettini, ho visto che non si abbassavano, ho detto basta, non li taglio più, boh. Bene, in effetti, non è che... io quando in macchina ho sempre avuto la PL800 e non c'è stato mai bisogno di tagliarla, nemmeno un millimetro, nulla, nulla di nulla. Alla base c'era la brucola, mollavo la brucola, o allungavo o abbassavo, ecco, e l'antenna andava a posto come doveva essere. Poi queste antenne così che devi tagliare, ma te sembra che uno deve tagliare l'antenna, ma cos'è che t'agosta? L'antenna deve uscire tarata dalla casa, mi dai un minimo di tolleranza, mi dai tramite ad esempio una brucola come la PDC 800, o abbassi o allunghi, e allora le stazionate te le trovi. Ma non che uno serve a mettere lì con la trocchesina a tagliare l'antenna, ma dove c'è fitto? Cose dall'altro mondo, per carità. Avanti break, io Nicola ti ricevo, dai. Tu mi ascolti? Dove ci siamo visti l'altro giorno, Nicola? Dove ci siamo visti l'altro giorno? Sono lì. Ti ha chiesto se sei fermo o se sei in movimento, Gianni. Sei in movimento, dal USB si vede, Nicola, ciao. Ok, c'è poco da capire. Quando l'antenna è lunga funziona meglio, quando è corta non serve a niente, ecco qual è il discorso. C'è poco da spiegare e penso che sia abbastanza elementare, chiunque capirebbe questo ragionamento. E tutti i cibi lo sanno, e tutti lo sanno, non c'è neanche il più ignorante dei cibi, che potrei essere io, so e sanno tutti quanti che l'antenna quando è lunga rende molto meglio di quando è piccolina, di quando è corta. Tutto lì, Monico. Vediamo se ti prende Gianni. Gianni? Forse è sceso Gianni, forse è sceso dalla macchina Gianni. Avanti, Vico. Se dicevo Santiago 6, non c'è molto QRM, va bene. Se dovesse salire QRM sono sicuro che non ti sento, però a questo punto no, perché ti sento Santiago 6, QRM 3, per cui non c'è problema. Ma oggi ti sento discretamente. Qua Giulio sono al quadrato adesso, guarda come mi ricevi. Santiago 8, Gianni, sei arrivato a 8, aspetta che stava parlando Nicola, non hai sentito? No, negativo, prova Nicola, avanti. Ma parlo, già ti ascolto anche io, probabilmente non mi sono accorto che stavi parlando, dico la verità. No, ti ascolto Nicola, tranquillo, non sei molto forte ma ti ascolto. Cappa, sono fermo. No, così ti sento io, non lo so, se poi la sposti da qualche altra parte non te lo so dire, so solo che oggi ti sento, perciò tieni presente dove ce l'hai, per sentirti io, almeno lì dove ce l'hai adesso, poi se anche hai un'altra posizione che magari va ancora meglio, non lo so, però ripeto, come ho detto poc'anzi, la frequenza è pulita nel senso che c'è poco rumore di fondo, per cui ti sento, se dovesse aumentare il rumore in fondo, tipo ad esempio se piove, che so io, cose del genere, probabilmente farò fatica ad ascoltarti, Nico, ma oggi come oggi ti sento abbastanza bene, non forte il radio, sia ben chiaro, basso però abbastanza pulito, chiaro. Vai Nicola. Ok, sì, va bene, dai, già ti sento, non c'è problema, quando ti sento mi fa piacere sentirti. Il problema è che mi dà fastidio quando non ti sento, ecco, tutto lì, io purtroppo sono fatto così, e se non sento mi dà fastidio, anzi preferisco non modulare io, per non sentire magari qualcuno. Avanti Gianni. Ehi, ma adesso già si fa sentire Nicola, dai. Tra poco prende la macchina, noi siamo qua, se vuoi venire Nicola non c'è problema. KK, non l'ha ancora aggiustata la macchina? Sì, ma mi ha detto che lui ce l'aveva guasta la macchina, ha detto, non l'ha aggiustata ancora. Oi, e tu prenditi la sua. Mi allontano un momento, dai, mi allontano. Infatti Giulio. Vabbè, non mi prende nessuno. Lupo grigio, ci. KK. Ma già la conosco l'antenna, già lo so che è bella. L'ho avuta io. Attenzione, mon ami, se qui ti dico lo bene. No, non mi ha mandato nulla ancora. Ma qui non è arrivato nulla. Dai, mi devo allontanare, mi devo lasciare. Ciao Nicola, ciao Gianni. Mi devo lasciare, dai, a dopo. Ehi, ciao Giulio, ci sentiamo, dai. chissà Nicola a chi la stai mandando tu la cosa, a me non me ne sta arrivando, a me non me ne sta arrivando. Poi quando arriva fa pip, mi manda il suono, non ha suonato nulla. Vabbè, arriverà in ritardo, non lo so, magari sulle spedite non è arrivata qua, magari c'è traffico. Cosa? Aspetta. Sì, ce li attivi, è arrivata adesso. Sì, sì, ho visto KK, l'ho vista, l'ho vista. L'hai messa, diciamo, come una direttiva. È capace che trova il barco così, capito? Io qua sono, amico. Vai, vai. Arrivi bassissimo. Ti ascolto per miracolo, vai. Nico, torna là perché non si capisce cosa dici. E io... sicuramente così, perché la caldaia è larga e lì fa da piano riflettente, sì. Non lo so, penso di no. No, non c'è nessuno, dai, stavo ascoltando, ma non c'è nessuno qua. Ho parlato solo con voi, l'ho piazzata oggi. Sì, c'era Marco Condor e poi altra gente, dai, non lo so. E adesso è arrivato, vabbè, dai. Se aspetti un attimino, è arrivato un amico, un secondo solo. Attenzione, lupo grigio, ascolti doppio room, cambio. Ti ascolto abbastanza bene, ti sento, là, diciamo così. Un attimo. Attento, lupo grigio, non ne fa rumore. Attenzione, lupo grigio, mi ascolti? Ehi, hai messo l'antenna, non ho capito bene cosa hai detto. KK. Sì, sì, ho capito, ho capito. Attenzione, lupo grigio, mi ascolti? Sempre lì fermo sono, sto provando diversi apparecchi, dai. Con questo come vado? Meglio dell'altro? KK. Boh. Andavè. Vabbè, dai, ti lascio io che sto chiudendo, dai, che c'è un amico qua e stiamo parlando, dai. Ci sentiamo, lupo grigio, mi ha fatto piacere ascoltarti, dai. Va bene, dai, vatti dentro casa, oggi non ti prende raffreddore. Ciao. Hola, hola. Avanti. Roberto, ciao Giulio, come sto facendo? Marco, tu sei? No, sono Roberto, Giulio. Ciao Roberto, vuoi te la radio? Sto provando questo baracchino, dai, non ascolto il microfono, va bene. Sei bassissimo, quasi non si sente. Guarda, adesso sono più vicino al microfono, mi senti? Adesso un po' meglio, però è sempre bassa. Devo entrare e provare, perché fermo da un bel questo apparato, devo vedere un pochettino. Ok, va bene, sistemalo. Il segnale com'è? Il segnale è un po' più del 9.15, 9.16, 9, massimo 9.17. Là. Ma con l'altro sono molto più forte. Con l'altro, no, come segnale sì, è più o meno così, anzi forse anche un pochino di meno, a 9.15 di solito ti fermi. Però di radio qui non ce n'è. Adesso devo fare una prova, aspetta che provo un altro microfono, scusa l'altro. Prova, perché sì, radio 1, radio 1 appena comprensibile. Avanti Santiago 7, chi è? Avanti, chi era Santiago 7? Avanti. Ma la musica ti piace, fischiare. Avanti Santiago 7. Giulio, ci sei? Attento Giulio. Attenzione Giulio. Pensare canale 10, c'è qualcuno? Attento 10. Non c'è radio, Roberto, non c'è radio, niente. Guarda adesso sono basso, meglio va. Adesso va un pochino meglio, però è radio 1 appena, basta. Cosa ha detto? Radio 1 di potenza solo 1 e sei bassissimo, si capisce però sei basso. Ah, è ancora basso la radio, pensavo che adesso la sovevano, ci sono un po' più forte. Sei basso e anche nasino, sei molto basso di radio e anche nasino. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. non è cambiato niente. Allora bisogna sistemare qua qualcosa, allora, devo vedere perché è un apparecchio vecchio, questo sto provando per curiosità, dai. Ok, dai, grazie per il momento Giulio, se sto provando, Mario, se ci sei ancora mi dai un altro controllo, va bene? Ok, d'accordo, d'accordo, va bene. Ok, grazie per il momento. Roberto, ci sei ancora? Attento Roberto, ci sei ancora? Avanti il fruscio, non il fischialo, il fruscio. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Franco, buonasera. Ma tu ti sei sempre? Sì, che ti ascolto, con le orecchie però, ti ascolto con le orecchie. Sempre, mi portate che mi ascolti, no? Per il resto. Già ti ascolto, Carlo, non c'è problema. A Puglia. Andale, andale. Io ci ho messo le luci, cioè delle cose attaccate. Meglio, meglio. Ossia che entra qualche radio bella spalata e ti spacca le orecchie. Cosa mi ha fatto un giorno? Non c'è un po', ma non mi ricordo, Luca. Che c'è, dove lui ci ha fatto un giorno, cioè. Luca esce forte in radio, Capita se c'è forse, altro che... Ma Luca chi? Luca Plipe o Luca Manicomio? Luca Manicomio! Perché ha una bella radio, Luca ha una bella... Sempre ha avuto una bella radio, la verità. A me è sempre piaciuta la radio di Luca, perché è sempre uscito molto, ma molto forte. Ma adesso in quest'ultimo periodo magari me lo segnale perché modula soprattutto dall'altra parte, però prima era sempre a livello di 9+15 e invece adesso anche quando è a casa sua, voglio dire a casa del monte, arriva intorno ai 9,5 o di più. Però la radio è sempre bombardante, proprio bella, chiara, pulita. Vabbè, anche la mia già va bene. Ah, adesso sto passando Va bene, dai. Certo che va bene, altro che se va bene. Alla grande, non c'è problema. E chi è quello? Ah, il PMR. Il PMR è acceso. Ma per carità. Ciao dei dinori di PMR, questo portato, io ce l'ho a casa, buttato, c'è anche il mio posto, l'ha portato. Lo uso qualche volta, ma non mi piace giù. Non mi piace brutto. Beh certo, il baracchino è un'altra cosa, però diciamo che stiamo andando anche lì la sera, diciamo che anzi alla volta siamo più lì che qua. Sentimi, quello lì era Luca, Luca Manicomio. E dunque è in quella frequenza lì. Anch'io c'ero poco fa, però poi sono passato qua. A me ripeto che c'è tutta la radio questa qua. Ognuno c'è il suo punto di vista. Beh certo, questa è tutta un'altra cosa. Quell'altro, secondo lo metti in mente, lo senti e non ti sentono. Mentre questo ti sentono sempre dappertutto, non c'è problema. Aspetta, aggiungo un secondo, vado a cominciare a tutti ci bagno. No, intanto mi hanno chiamato, dai, io ti lascio, così tu li approfitti e io ti lascio, dai, perché mi hanno già chiamato poco fa e dunque devo scendere giù. Ok, ciao Fra, alla prossima, dai, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Giù, dai, anche allora, anche io, dai, ci sentiamo domani, ciao a tutti, anche a quelli che sono ascoltati, per tutti per me, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, a me mi ascoltano tutti, meglio per te che non ti vai a ascoltare, ciao. Ciao Claudio, buonasera, ciao. Ciao, ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao. Ma anche tu stai chiudendo? Sì, sono entrato adesso col cane, dai, mi stavo ascoltando. Ho detto che a me PMR mi ascoltano tutti, io ascolto a tutti, basta trinzatti. Lo so qua, però no, è una cosa che non mi piace molto, lo so. Ehi, poi ci vivrei, tanto. Meglio prendere un po' di tutto, ciao Biglielucci. Ciao Giulio, buona cena. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Io oggi ho c'è la struttura, dalla sorella, se c'è da pagare. Cosa fai dopo che fa? E accedo, c'è la Giulia, potremmo fare la fine, poi dove sarà più bene, va bene. Ah, dove siamo andati noi? Sempre lì abita, sempre lì c'era la casa. Casa, sì, sì, sempre lì. Lo stava prendendo perché la voleva prendere una più grande, vedi? Invece già attenduisce, già andava. Ma è fatto, ma si deve passare la casa della più grande, lui. Ce n'è, ne avanza lì, va bene, per lì, e lui, tutti e due, anda, tu vabbè, vabbè, ma lui al mare non ci va a cenare. Ascolta, ma in pensione è andato o no? No, sempre con la professionaria vicino a Torrafaella lì. Ah, ho capito, sono da tanto che non lo vedo, qualche volta lo vedevo in viale con il dottore Geppino, poi no, non l'ho più visto. No, c'è andato per i fatti scuri adesso, ha preso il cappannone, e sta prendendo la macchina contro lui, ha ragione, c'è lui, la figlia, la latina, la figlia scuola, va in tribunale, la dottoressa, e la sera va a aiutare il padre, capito? E da prima lo doveva fare invece di dar mangiare all'altro, da prima lo doveva fare perché è un grande venditore. No, lo so, ma lui prima era con Giovanni, già lo sai, tu hai una cosa successa in Carissa, poi era con quell'altro, lo stesso, perché poi si va a beneficiare qua, capito? Ma se c'è stato così, prima tu va a beneficiare. Ha ragione Ilaria, le società vanno bene, il numero dispari, il numero pari non andano mai bene. Non si conferma, che fate così? Ma è stato tutto suo, ma stava già, sta con me, va bene, va scuola, c'è la piccina anche lì. Va bene, va bene. Ok. Ok, dai. Va bene, fra, dai. Manchi l'ascolto, sono entrato adesso col cane, mi sistemo, semmai riprendo dopo, dai. Se stavi andando al QTH piccolo, vai, ci sentiamo dopo. Va bene, dai, se ci sei dentro dopo, facciamo una chiacchierata, allora ci spostiamo, rimaniamo qua. Dai, ci siamo dopo allora qua, vado a fare dopo, lasciami il sistema, poi già riprendo dopo. Va bene, allora ci siamo dopo. Ok, dai, c'è un casa, anche la persona per Lucia, al dottore A. Ok, buon carica dopo, ciao. Ciao fra, cosa ha cambiato, dai, da parte mia e l'Arianna. Ciao, ciao, dopo. She did.